Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Sono le 8:19 minuti. 8:19 minuti in questo senso settimana. Io lo so che tu, malgrado il terrorismo, malgrado quello che c'è sotto Torino, cioè sempre sono soddisfatto dall'evento sportivo. Vabbè, No. Diciamo, certo, sì, no, ma no, dai, le orecchioni, che... ho visto quella cosa, hai twittato quella roba sugli orecchioni. Manco Gesù, ma dai. Lo dico da torinista, però insomma, poverini, parcele subiectis e debellare superbi. Ma come poverini? Parcele subiectis, ma loro sono i subiectis, non i superbos. Hanno vinto i superbos tutto. Sono i madrelenos, che vuoi. Ma come poverini, dai, poverini non ti si può credere, che pensi poverini degli juventini che hanno perso la coppa. Vabbè, comunque, detto tutto questo, per me la settimana ha un evento imperdibile, centrale, tutto il resto è secondario. Adesso lo dico per battuta, perché poi in realtà con la faccenda di Londra di cui ci occuperemo si vede che possiamo illuderci, ma vivremo a lungo con il terrore che picchia la nostra porta. Ma detto tutto questo, per me l'evento centrale della settimana, sai qual è? Venerdì a Napoli, alla Fiera Oltremare, perché c'è un incontro che cambierà la storia d'Italia. Ah sì? Sì. La stampa ne parla oggi, tu l'hai perso, non te la stessa stampa, ma è fondamentale perché l'incontro con De Mita, Mastella, Pomicino, Follini, eccetera, eccetera, che rifonda la DC, io penso che, cari italiani in ascolto, iniziate a prenotare posti, treni, aerei, eccetera, eccetera, bisogna assolutamente, sarà la vita, cambia in questo paese, si torna finalmente alla casella iniziale. Io devo dire che non riesco a trattenere, lo so, non lo dovrei fare, De Mita, Pomicino, uno, tutti e tre queste, però no, io leggo e non posso io fare io l'ho messa almeno... come notizia così, De Mita, rifacciamo la DC, punto. Cioè, per me è una no. Legge e dice sì, siamo in Italia, certo. È proprio così. Del resto, World Economic Forum venerdì, classifica internazionale dei paesi con la spesa pubblica, in inglese è più wasteful, dove significa si spreca di più, allocata peggio. Sprecone. Perché gli effetti sono di minore diminuzione della povertà, quindi allocata peggio tra centro e periferia, e allocata peggio per corruzione, inchieste, sprechi, e siamo sesti al mondo. Penso che lì, come vedi, vinciamo facile, per così dire. Vabbè, santi di oggi, ma oggi è San Bonifacio, e San Bonifacio è un santo fondamentale, perché senza San Bonifacio non si capirebbe un bel pezzo di tutto il ciclo dell'impero carolingio e dell'importanza ancora oggi dell'asse franco-tedesco. Lui in realtà è un inglese del Devonshire, che diventa vescovo a Roma e gli si dà tanto importanza a Winfried, che poi diventa Bonifacio diventando vescovo, che gli si affida l'evangelizzazione sull'altra riva del Reno, cioè su quella germanica, che era rimasto un problema aperto per secoli, visto che i romani avevano, tra virgolette, perso, e quindi diventerà arcivescovo di Magonza, fonda una delle più grandi abbazie di tutto l'alto medioevo, Fulda, e viene ucciso appunto poi per mano di frisi pagani. San Bonifacio, punto di riferimento di tutta la vita cristiana del medioevo franco-tedesca. Oggi, nel 1224, Federico II fonda l'Università degli Studi di Napoli. Pensa un po' quanto è lunga la storia dell'Università degli Studi di Napoli, che infatti si chiama Federico II. Israele nel 67 inizia gli attacchi preventivi contro Egitto, Siria, la guerra dei sei giorni, con la quale poi arriverà a conquistare e annettersi Gerusalemme, e nel 1975, incredibile a dirsi, voto il referendum nel Regno Unito, ma vince il sì all'ingresso nel mercato europeo, e oggi siamo alle prese con la cosa opposta. La realtà è che la data centrale di questa settimana sono le elezioni britanniche, appunto l'8 giugno, vediamo, perché la May ha perso più di 20 punti di vantaggio, ma ne parleremo tra poco, vedremo qual è l'effetto anche dell'attentato. E nel 2007 oggi il Parlamento austriaco concedeva il voto per le politiche ai sedicenni. Tu saresti favorevole in Italia? Il voto ai sedicenni? Bah, perché no? Perché no? Alla può... Camera, oltretutto, visto che ne abbiamo tenute due di Camera. Tanto il problema sono quelli che non votano una volta che si disamorano della politica, non quelli che si innamorano precocemente. Ti dirò che anch'io non sarei contrario, mentre immagino tantissima gente che dice no, ma come, i bambini non possono votare, perché oggi sai, sì, i bambini sì. Fino a 37 anni praticamente, quindi... Io sono un po'... No, si può abbassare l'età, dopodiché quando sarà 16 anni diranno allora perché non 15? No, secondo me no, quello la vedo più complicato. Essere. Auguri a Massimo Cacciari, a Stefania Sandrelli e al nostro, perché è anche diventato un po' di Radio 24, Enrico Ruggeri. Eh sì. Allora, ovviamente è stato un weekend in cui, secondo me, è brutto fare le classifiche, ma insomma, quello che è successo in Piazza San Carlo a Torino è quasi più grave rispetto a quello che è successo a Londra. Non voglio fare paragoni, voglio dire, a Londra ci sono 7 morti, però a Londra, ecco, cari ascoltatori, non equivocate per favore, ma io e Alessandro la pensiamo così. Io da torinese ancor più penso anch'io, rispetto al fatto che gli attentati si ripetono, le vittime purtroppo è una tragedia, perché si capisce che continuano a colpire dove vogliono in centro. Però la cosa di Torino, non prendiamoci in giro, è una questione che dice di come in Italia non la vogliamo capire certe cose. 30.000 e più persone a Piazza San Carlo, per chi è torinese, con quelle transenne, poche vie di fuga, i venditori di bottiglie non ci possono stare. E chi, mi dispiace signor prefetto che ti sei autoassolto ieri sera, perché il responsabile di questa roba sei in primis tu, e io personalmente ritengo che una questione grande come una casa sulle inadeguate misure di sicurezza assunte in quella piazza, dove c'era una densità umana intollerabile, non solo per quello che può venire per il terrorismo, per banali ragioni di no, ecco, io la penso così e sono contento che la pensi così anche tu. Ma sì, insomma, a Londra si è fronteggiato un terrorismo concreto, a Torino siamo riusciti ad avere 1500 feriti e non c'è scappato il morto per poco, per un attentato inesistente, quindi voglio dire, capite che la situazione è grave sotto un altro profilo. Certo, però partiamo da Londra, c'è Cristina Marconi che è collaboratrice del Messaggero, è con noi, buongiorno Cristina, l'abbiamo ritrovata l'ultima volta. Allora, le agenzie dicono che anche questa mattina alle 4 di notte, ora locale italiana, c'è stata un'irruzione, no? Per cercare di arrestare qualcuno, per cercare di capire la matrice. Di sgominare la cellula. Esatto, di sgominare la cellula. Si dice che si conoscevano, si parla addirittura di un'italiana che avrebbe denunciato uno di questi tre attentatori. È davvero così, Cristina? Allora, siamo purtroppo davanti al nuovo lo schema che si era già visto a Manchester, nel senso che comunque c'è un sistema per segnalare le persone che mostrano tendenze radicali, questo sistema è stato usato, ma queste denunce non hanno avuto seguito. Quindi sì, leggevo di questa italiana che in un parco dove uno dei tre attentatori uccisi era lì a... cercare di convincere bambini a essere coinvolti nel suo credo, ecco, lei l'ha preso, l'ha filmato, ha mandato le immagini, ha fatto delle foto, ha mandato delle immagini alle forze dell'ordine, però questa cosa chiaramente non ha avuto seguito, come purtroppo si è tristemente sabato sera. Stona un po', cioè invece sentire quel enough is enough, no? Quel quando è troppo di Theresa May, cioè che vuol dire? Che succederà adesso? Perché allora, Theresa May aveva detto nel 2015 the game is up, quindi i giochi sono finiti. Theresa May purtroppo in questo momento le prese con un grave problema di credibilità, perché dice molte cose ma torna anche molto indietro. Theresa May è stata ministro degli interni prima di essere premier e purtroppo, almeno su quello sul caso di Manchester, su cui si conoscono più dettagli, diciamo, ovviamente ci sono delle radici lontane, cioè sono storie che hanno appunto, le denunce sono vecchie, tante cose sono vecchie, quindi chiaramente lei può fare tutti gli annunci così molto giustamente, insomma, enough is enough, mi sembra più che sensato, annunciare nuove misure come incarcerazioni più lunghe, una lotta al terrorismo online e tante cose, però qui c'è un problema che la legge che c'è, che le misure che ci sono non sono state applicate e c'è un problema di Theresa May che è arrivata a una situazione incredibile di ritrovarsi a perdere consensi contro un Jeremy Corbyn i cui difetti possiamo cominciare così a elencare adesso fino a questa sera, e però proprio per questa sua, era partita come l'Iron Lady ed è diventata quella che fa l'inversione a U, quindi diciamo il suo discorso fatto in un giorno in cui la campagna elettorale doveva essere teoricamente sospesa, ha fatto un discorso molto politico, molto forte, molto duro, ma non è il primo. D'altronde giovedì ci sono le elezioni, Oscar. Certo, qui diceva dobbiamo abituarci a questo, a queste città che periodicamente capita al Parlamento, ricapita London Bridge, come si vede, cioè non un vuol dire alzare scende le mani, se le foto degli occidentali con le mani alzate, purtroppo anche le foto sono dei simboli, le abbiamo viste, no? Con la polizia che faceva evacuare e tutti con le mani alzate, è un segno che per noi è un segno di resa, per noi nelle nostre culture, in realtà era un modo per reagire alla situazione. Ma Cristiana, posso fare una domanda? Ma in relazione alla perdita radicale di consensi, è riuscita a macinare più di 20 punti persi rispetto all'inizio del giorno in cui aveva convocato le elezioni pensando di stravincere una vittoria che la Thatcher se la sognava. Certo, doveva essere una passeggiata. Certo. Stamattina i giornali britannici hanno già iniziato a dire secondo loro quale sarà il possibile effetto sulle urne, cioè vince Corbyn alla fine? Allora, io non, diciamo, dopo la Brexit, dopo le elezioni del 2015, diciamo di fare frate indovino, non meglio mi adatterei. No. Però, diciamo, leggendo tra le righe quello che scrive Financial Times, quello che scrivono BBC e tutto quanto, io non credo che si possa veramente mettere in dubbio la vittoria della May, anche perché la May in questa situazione è nella situazione paradossale di essere, diciamo, l'alternativa di destra, però purtroppo con dei dubbi proprio legati al suo operato in materia di sicurezza. Dall'altra parte, se Corbyn avesse, diciamo, il coraggio di indicare un potenziale ministro degli interni un po' migliore di Diane Abbott, che è quella che è stata così la sua collaboratrice, che avrebbe il ruolo, che è veramente molto molto debole, forse insomma qualche chance in più ce l'avrebbe. Dopodiché una cosa che è vera, cioè che comunque il terrorismo non ha cambiato in passato, non l'ha cambiato con l'Irlanda, non l'ha cambiato l'anno scorso con Joe Cox, ricordiamoci, no? Quando dicevamo mi ricordo che aveva fatto il titolo dicendo una donna morta cambia il destino dell'Europa, la Brexit c'è stata, ecco. Quindi insomma adesso tu che li conosci bene lo sai, loro vadano più al portafogli che a queste cose, poi la sicurezza si gestisce, quello che è importante sono questioni economiche. Lei quello che ha fatto, e lì è stata proprio la violazione del patto con gli elettori, lei ha cambiato una misura del manifesto elettorale prima ancora delle elezioni e ha presentato una misura come quella sulla la tassa sulla demenza senile, che era una vera di mettere in tasca le mani in tasca ai piccoli possidenti, proprietari di casa, eccetera eccetera. Questo è stato molto sono queste le cose che poi incidono di più. Poi il terrorismo e la sicurezza è una cosa che poi impatta su tutti i cittadini in maniera trasversale, però staremo a vedere. Intanto dice Cristina, per concludere, No, che dopo che Manchester non ha spostato i sondaggi adesso, diciamo quello che leggo è che persone sul campo, chi sta facendo campagna, continua a sentire un sostegno per i conservatori, ma insomma non è veramente vedremo. Vedere. Insomma, intanto ti ringraziamo Cristina, ci sentiamo magari in settimana dopo le elezioni. A Cristina Marconi grazie ovviamente. Noi tra l'altro, Oscar, dando il numero di telefono, se c'è qualcuno che era in piazza San Carlo a Torino, perché c'erano migliaia di persone, 800 24 0024, opinioni e testimonianze graditissime di prima mano, ci raccontate che cosa avete visto, se siete di Torino, cosa avete saputo. Certo, davvero è impressionante, c'erano 30.000 persone, così si stima, ma senza una via di fuga, tutte lì. È chiaro che poi il colpevole numero uno è quel cretino che per fare una bravata pare, o uno, due, non si sa, ha urlato attentato, ha urlato sparano, ha urlato qualcosa. Però poteva succedere un qualunque evento, casuale o di cretinaggine, l'effetto sarebbe stato quello con quella densità e con l'organizzazione della piazza. Poi giustamente ci si chiede, c'era il divieto di vendita con un'ordinanza di bottiglie di vetro? Ad esempio, sì, no? O no? Che poi sai, viene sempre aggirato da quelli abusivi che nessuno controlla. Però intanto era pieno di gente che sono registrati, no? Li ha mandati in onda tutte le televisioni, quelli che c'erano. Due bottiglie e 5 euro. Cioè, esatto, anche perché la maggior parte dei 1527 feriti, le ferite, tutte ferite come da taglio, se sono ferite, ferite da cocci di bottiglia, sono caduti nella carica. E guardate, veramente è andata bene, Cioè è andata bene. Naturalmente, speriamo che il bimbo e la donna, che sono i più gravi ancora, se la cavino bene. Però il bilancio poteva essere terribile. Esatto. C'è Arnaldo che ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. La penso esattamente come voi. C'è una parola che nessuno dice, che però quando io ho visto la folla muoversi con quell'impeto, a me è venuta in mente una cosa che abbiamo visto 32 anni fa. Leisel, è chiaro. Leisel. È chiaro, anche cane. Perché il contesto era sempre, cioè, sì, legato a una allora, partita della Juve. Ma la cosa che mi fa incavolare è l'autoassolvimento di prefetto, questore, sindaca. Cioè, ma stiamo scherzando. Cioè, due pirla rischiano di fare una strage, le avete viste le transenne piegate come burro? Lì c'è rischiata il morto, ma non uno, almeno 20, e dormiamo tranquilli. Il questore si è autoassolto, tutto ok, nulla, le misure antiterrorismo sono andate bene. Hanno funzionato, sì. Detto così. Sì, ma va bene antiterrorismo e bastano due pirla che mettono due petardi per terra e se li mettevano nelle bottiglie, cosa succedeva? Cioè, io non dormo tranquillo. Perché guardate che dormiamo tranquilli, anzi dormite tranquilli, lo disse Chamberlain a ritorno da Monaco nel 38. Già, bravo. Il mondo, dormite tranquilli, cazzo, ci è visto come ha dormito tranquilli. Chiaro, Arnaldo, certo ci dovrà essere un'analisi di quello che non è andato bene. A me conforta il fatto di leggere che Minniti, che è uno che le cose, come dire, non le lascia passare così, ha detto adesso per le 1700 manifestazioni estive che si prevedono o si organizzano bene o si annullano. Forse questa è la soluzione, cioè o si organizzano bene con tutti i criteri oppure si annullano, perché non si può eliminare il rischio terrorismo, ma credo vero, che dobbiamo non batterci con la campagna pubblica perché il ministro Minniti faccia seguire alle parole i fatti, perché tra l'altro ieri sera il prefetto di Torino dichiarava: la nostra linea è quella di continuare a far vivere le piazze, e chi dice di no, perché altrimenti ci sarebbe una resa al terrorismo. Il problema è che non possono essere organizzate come prima, punto, cioè tutto lì, caro signor prefetto. Dopodiché io non voglio scatenare accuse, campagne, però si può dire no, ha funzionato. Il nostro ascoltatore dice, ha ascoltato anche lui le stesse parole, il dispositivo di sicurezza del terrorismo ha funzionato, ma non stiamo parlando di quello, come è evidente. Comunque vabbè. Comunque c'è non solo questo, e dopo la pubblicità, tra qualche minuto, noi avremo, come ogni lunedì, facciamo anche il punto politico, perché in questo momento è stato messo un po' ai margini dopo tutte le notizie. Ma intanto invece l'accordo è proceduto, ormai insomma, si è corretta anche il rischio di anticostituzionalità. Esatto, e quindi va avanti la legge elettorale, si va avanti verso le elezioni, questo almeno se il patto regge, insomma capiremo da due colleghe, quindi attualità politica, ma anche se eravate a Torino chiamateci e anche cominciamo al fatto come la pensano loro sul fatto che i maschi poi obbligano solo a parlare della Juventus e basta. I maschi ma sì, ma Dio, il giorno che ci fu la cosa all'Eden della mela e guardando Adamo disse: ti aggiusto io, ti obbligo a parlare di calcio tutta la vita. Questa era una maledizione divina. Vabbè, ma dai, oggi di calcio è bello parlare. Pubblicità 24 mattino, attenti a noi due. Allora, siamo alle 8:40 minuti, c'è Stefano che ci chiama da Pordenone, buongiorno Stefano. Buongiorno a voi, grazie di avermi richiamato. Grazie a lei. Niente, io volevo dare una mia opinione su quello che purtroppo è successo ieri a Torino, questa grande disgrazia alla fine. Perché mi sono reso conto che hanno fatto vedere comunque delle immagini dove invece i madrileni si sono trovati tutti al Santiago Bernabeu con gli schermi giganti messi al centro del campo. Sì. Allora dico, lo stadio di Torino è veramente una meraviglia, molto bello. Bastava noleggiarle, perché non serve comprargli questi maxi schermi, e far entrare tutto il pubblico e tutti i tifosi della Juventus. Vabbè, Stefano, però non è che per questo bisogna, allora le piazze non sono più fruibili. Sì, certo, lo stadio è un'altra soluzione, ma voglio dire, magari più controllabile, però cioè lei dice bisogna andare negli stadi posso e dire, non nella piazza. Beh, da torinese, con tutte le lettere che ho condiviso con me, domanda legittima, in città se lo sono posti molto questo problema. Perché lo stadio no? No, ma è chiaro, però voglio dire, così allora cioè, rinunciamo ad andare direttamente in tutte le piazze. No, però è un evento che insomma, siccome è un evento collegato, no, a una grandissima società sportiva italiana, ai vertici del calcio europeo, magari è una soluzione diversa. Caro prefetto. oggi fischieranno le orecchie. No, vabbè, insomma, ce lo dico perché ieri ha detto delle cose, come se non fosse cioè, la, complimentava con i poliziotti dell'apparato antiterrorismo, io sono felice, certo. Comunque, insomma, la vita politica va avanti anche in Italia, non... No, belle novità. No, certo, non è, non poi è sulla prima c'è l'addio pagina della Bindi, l'addio di Verdini. L'addio forse anche di Prodi, che dice se arriva Berlusconi anche io. Cioè, la tenda sorpresa vicino al PD. La tenda, ma se arriva... La tenda. Perché, no, la tenda? Parole. Ma perché la tenda? Fa capire che è comunque una scelta è temporanea. In campeggio. No, no, nel senso che non è che vivo nel condominio PD. No, dice, non mi convincete. Però tenda. Se arriva Mister B, cioè Berlusconi, io. Appunto, Levo le tende. Fatto Quotidiano. Questo Prodi al Fatto Quotidiano. Sì, mentre su Repubblica Verdini se ne va e sempre su Repubblica Bindi forse se ne va. No, no, non si ricandida di sicuro, ma poi se ne va dal PD. Adesso. Ah, così dice. Sì, non si ricandida o non viene ricandidato. Va bene, comunque, insomma. Allora, diciamo, la politica, l'accordo va avanti. Con noi c'è Annalisa Cuzzocrea di Repubblica. Annalisa, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. Così come Elisa Calessi di Libero, la nostra accoppiata vincente. Buongiorno Elisa. Buongiorno, ciao Annalisa. Eccoci qua. Subito ci siamo fatti ridere in faccia da entrambi. No, ma siamo no. Proprio due maschietti cretini. Va bene? No. Assolutamente. No, mancava di ceste la bionda e la bruna ed era fatta. Ecco, lo sapevo. No, peggioriamo il nostro bilancio. Va bene. Ma no. Allora, Annalisa, tecnicalità della legge elettorale, io lo so, poi Oscar mi odia per questo, io le lascerei da parte, nel senso che, voglio dire, se no sono difficili da capire per loro, no, signori. Io dico che non condivido l'entusiasmo che hai tu per la delega ai politici, io dei politici non mi fido, perché mi fottono tutto qua. La fanno loro, di fatto. Allora io li critico, tutto qui. La legge elettorale. Allora, questo accordo, accordone, accordino, tiene o no, Annalisa? Tra i partiti, ovviamente. Secondo me sì. Secondo me tiene, credo che abbia superato gli scogli maggiori, hanno trovato un compromesso in modo che tutti possano dire abbiamo ottenuto questo per il bene dei cittadini, i 5 Stelle, gli orlandiani che dicono basta pluricandidature piuttosto che no, basta capilista bloccati, quindi credo che l'accordo terrà. Che al Senato andrà avanti, anche perché essendoci anche 5 Stelle oltre a Forza Italia e PD i numeri a questo punto ci sono. Per una volta sono ottimista che sia la settimana decisiva, la settimana decisiva. Il mese decisivo. Pare che il 7 luglio potrebbe concludersi tutto questo. Poi sul giudizio sulla legge, diciamo che era meglio che non tenesse, per quanto mi riguarda. Ecco, nel senso, ecco. Cioè una legge brutta, però l'accordo c'è. Sì, si guarda però alle elezioni, perché non ci dimentichiamo che domenica si vota alle amministrative in alcuni comuni, anche alcuni importanti, Parma, Genova. Insomma, e questo qualcuno dice potrebbe far scricchiolare questo accordo. Non so, Elisa Calessi di Libero, le elezioni possono impattare oppure no? Effettivamente questo turno elettorale sta passando totalmente sotto silenzio, forse perché si annunciano problemi un po' per tutti, sicuramente per il PD, tu citavi Parma, io aggiungo Genova, città storicamente di sinistra, che molto probabilmente il PD in certo senso perderà e dovrebbe andare al centrodestra, dovrebbe perderla pure il Movimento 5 Stelle, nonostante sia la città del fondatore, quindi insomma ci sono problemi per tutti, quindi sta passando sotto silenzio questo turno, però come giustamente dicevi tu a un certo punto quando si vota se ne parlerà e quindi è possibile che ci siano delle scosse. Sai, su questa legge elettorale va bene anche per un semplice motivo, cioè l'accordo secondo me tiene perché c'è un punto che conviene a tutti, e cioè dà un enorme potere ai segretari di partito. Ecco. Questa è la verità. È quello che Oscar da giorni ci dice che... Il punto è chiaro, ci fottono. Il dito negli occhi degli italiani. Siccome la penso così, mi dicono ma tu parli troppo legge elettorale. Sì, perché cari ascoltatori, vi fottono! Non so se è chiaro, però siete tutti contenti, perché io ricevo un mucchio di lettere, care nostre colleghe di renziani che mi dicono sei un miserabile perché tu tenti di animare l'anticasta. No, la legge proporzionale è fatta nell'interesse dei segretari dei partiti per fotterci. Questa è la sintesi mia di giornalista osservatore di lungo corso. Quindi beccatevi venerdì, De Mita, Pomicino, Mastella, eccetera, che rifanno la DC. Io mi metto a sorridere perché ma il senso è quello che ha detto Elisa Calessi adesso. Cioè l'elettore non deciderà né il governo né i parlamentari, detto in modo brutale. Adesso non è la colpa, cioè si può dire però c'è stata la bocciatura del referendum, tutto quello che si vuole, però Di fatto è così, no, perché ci saranno liste corte bloccate e collegi, ma collegi ripartiti proporzionalmente. Adesso non entro nei dettagli, se no faccio sparire tutti gli ascoltatori, però di fatto anche questa riduzione dei collegi che c'è stata non fa che aumentare la quota degli eletti nei listini, quindi insomma decideranno tutti i segretari. Decideranno tutti i segretari. Ma Annalisa Cozzocrea, posso fare una domanda di quelle brutali che non si fanno mai ai colleghi? Certo. Qual è la convenienza di Renzi per una legge che mette bandiera bianca su tutta la vocazione maggioritaria del PD, oltre a quella di regolare i conti nel partito? Ma dico, dal punto di vista della governabilità, cioè perché gli conviene al PD? Allora, qualcuno dice, allora, l'unica convenienza è la fretta, la voglia di andare a votare il prima possibile, cioè avere una legge per andare a votare. Dopodiché sono d'accordo con te, questa legge accontenta tutti, perché come giustamente dice Elisa, decidono i capi partito. Quelli che secondo me ne vengono fuori peggio sono proprio gli esponenti del PD. E qualcuno dice anche che Renzi non aveva, almeno nei 5 Stelle, sapete che girano molte teorie complottiste, una delle teorie complottiste è che Renzi non vuole votare dopo la Sicilia, perché la Sicilia può essere, il voto in Sicilia che è a ottobre se non sbaglio, può essere un volano per i 5 Stelle, perché lì pensano di fare un buon risultato mentre pensano di andare male loro stessi a queste amministrative di domenica. Quindi andare presto a votare per fare la finanziaria, come dicevamo l'ultima volta che ci siamo sentiti, e non dover votare dopo una finanziaria lacrime e sangue che comunque verrebbe imputata al PD. Queste sono delle ragioni che però sinceramente non mi sembrano sufficienti per anche perché la finanziaria Padoan l'ha praticamente smontata, faranno un altro decreto a luglio, quindi boh, non si capisce. Però comunque se li mettete in fila, no? Oggi c'è Prodi, sì. Ha parlato Letta, ha parlato Veltroni, tutte le persone che hanno creduto nel Partito Democratico dicono e nelle ragioni per cui è nato, è dicono che questa legge lo uccide. Ed è vero, perché questa legge è l'unica legge che consente al PD di non dire che cosa vuole fare. Però che ci siano cose strane o nuove in politica lo testimonia anche tu, Annalisa. Hai intervistato Luigi Di Maio, credo, qualche giorno fa. E Luigi Di Maio. La cosa strana è che io l'ho intervisto. No, la cosa strana è una risposta di Luigi Di Maio. Che a un certo punto, di fronte alla domanda tua, ma con chi farete l'alleanza? Non è che dice come al solito noi il Movimento 5 Stelle alleanze, orrore, sdegno, no, dice le faremo con chi crederà al nostro programma. Questo a dire che loro poi dicono che non scambieranno poltrone, che non daranno posti di ministri, che le alleanze ho capito, ma se uno fa un accordo è ovvio che poi qualcosa succederà. E poi hanno sempre l'arma della rete che hanno usato per far accettare agli attivisti il tedesco. Nel momento in cui si vota, se loro fossero il primo partito e avessero l'incarico del Presidente della Repubblica e la Lega dicesse sì, vi appoggiamo ma vogliamo due sottosegretari, allora non costa niente mettere in rete questa cosa e dire volete voi che noi per andare al governo e fare il programma che avete scritto, così sarà. E per questo questa è la legge ideale per loro, perché non li costringe a dire prima cosa vogliono mani fare libere. Con chi vogliono farlo. Dopo, la risposta dopo decenni di mani pulite è mani libere. Questo è da parte dei partiti. Questo è così. Anche Elisa Calessi. Elisa Calessi racconta sempre anche dal centrodestra che insomma Berlusconi sta capitalizzando al massimo col minimo sforzo. Tra l'altro, tutti che escono dalla politica, ma c'è uno che entra in politica e l'abbiamo perso. No, adesso, guardate come signori. Si entusiasma Alessandro Milan all'idea che Galliani. Ma è un finto entusiasmo. Dopo aver rovinato il Milan, guarda, ti darò un'altra apertura vera dei giornali che oggi non osano scriverlo. Tu sai perché è in dubbio la conferma di Donnarumma del tuo Milan? Sì. Perché entra in politica insieme a Galliani. Questa è la verità. No. Berlusconi l'ha deciso, è la carta segreta. No, ma che meraviglia! Io Elisa Calessi, non faremo commentare l'ingresso in politica di Adriano Galliani. Molto probabilmente, no, ma in realtà è un Berlusconi che sta capitalizzando, sta fermo lì. Però hai è visto, deluso dai primi sondaggi sul partito animalista alla Brambilla, è deluso. Non sa più cosa fare. Però ha lanciato il sasso del proporzionale. Ora sta raccogliendo. Possiamo dirlo brutalmente, caro Renzi, e carichi voi. Che in tre interviste vi ha riallineati e ha ottenuto quello che voleva. Berlusconi. Ha lanciato in tre interviste. In acqua e sta tirando sui pescioni. Elisa, è così. Cioè, ha dell'incredibile quello che è riuscito a fare, perché con un partito crollato, insomma, a percentuali che sono quasi la metà di quelle che aveva 10 anni fa, quindi insomma un tracollo vero, è riuscito a ritornare al centro, a imporre la legge elettorale che voleva lui e non solo, a appaltare sostanzialmente la possibilità di diventare decisivo nella formazione di un governo, cioè di fare il governo. Pazzesco. Non solo nel parlare di questa ipotesi, lui sta di fatto uccidendo il PD, cioè lui ha due... No, adesso ci fai arrivare altre lettere di insulti dai renziani. No, sta facendo un favore al PD, figura. Cioè, perché se riesce, diciamo, a diventare decisivo, fa il governo con il PD. Se non riesce, questo parlare di inciuccio farà perdere voti al PD, come io penso, sì. E quindi invece ritorna la possibilità, di che non è affatto esclusa, di un governo invece di centrodestra. Pensa soprattutto Taglia, Lega, Galliani, ministro. Berlusconi che Galliani fa sloggiare la tenda di Prodi. Dopo il Lotti Letta avremo Galliani ministro dello sport. Guardate però che vogliamo concludere sempre con l'allarme, insomma quello che è successo. Ci ha chiamato Andrea da Prato, che ci dicono da redazione era lì in piazza San Carlo a Torino, e così. Andrea, stiamo purtroppo chiudendo, non abbiamo molti secondi. Andrea, buongiorno. Ciao Oscar, ecco. Ciao Alessandro. Sì, io ero in piazza esattamente in mezzo con tre amici e da un momento all'altro ci siamo trovati travolti dalla folla, dalla massa, senza saper rendersi conto da dove veniva, cosa fosse. Sentivamo un rumore tipo come se fosse praticamente una corsa di cavalli, un'automobile. Era lo scalpiccio. Non sapevamo cosa aspettare. La densità umana era elevata o elevatissima? No, era elevata. Elevata, non elevatissima. Ma com'è andata con le ferite? È vero che c'erano cocci di bottiglie? Beh, sì, ma già, cioè, noi siamo arrivati lì verso le 4 e già comunque c'erano cocci di bottiglia a terra. Accidenti. Sì, siamo arrivati già alle 4, comunque la piazza era piuttosto piena. Cioè, io fortunatamente me la sono cavata con qualche livido, però altre no. Mio amico, che ho ritrovato solo mezz'ora dopo, cioè, comunque si è tagliato una mano, cioè, alle molinette c'erano veramente centinaia di persone. Sì. Andrea, è così. Concludiamo con la tua testimonianza ringraziando Elisa Calessi di Libero, Annalisa Cuzzocrea di Repubblica. La bionda e la bruna. Smettila, vedi. L'ha detto loro! Ci troviamo domani.